A Tempo di Sport. E allora buon pomeriggio amici di A Tempo di Sport, anche se non è un buon pomeriggio per la Ferrari che, come avete sentito nel GR, è stata beffata nelle prove di Monza da un guasto che costringerà Alonso a partire soltanto dalla quinta fila. Non è nemmeno un buon pomeriggio per l'Italia del calcio, che ieri sera è stata risvegliata da un paio di schiaffoni in Bulgaria e forse era ancora addormentata sugli allori e sui complimenti del secondo posto europeo in Polonia e Ucraina. Aspetto le vostre chiamate e i vostri messaggi per sapere cosa ne pensate della prestazione della nazionale a Sofia di ieri sera, cosa ne pensate anche di Alonso e della sua Ferrari, di un mondiale sempre più riaperto. Io vi ricordo i contatti 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri SMS, poi potete anche scriverci con i vostri tweet su Twitter @ tutti convocati. Un saluto da Giovanni Capuano in studio, Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricella in regia, e un saluto anche a Mario Poltronieri. Buon pomeriggio Mario. Buon pomeriggio a te Giovanni e a tutti gli ascoltatori. Possiamo dire allora, che è stata una beffa? Beh, diciamo che è stato molto sfortunato, perché il problema del Q3, cioè dell'ultima prova di qualificazione di oggi, era il quarto che gli è capitato nell'arco di due giorni. Quindi se c'è una preoccupazione è proprio quella, cioè come mai tutti questi piccoli problemi che poi si traducono poi in realtà in difficoltà enormi, perché tutto sembra facile, ma basta semplicemente che una batteria non vada, un bullone non si avviti per tempo eccetera, e nelle gare dove ormai i distacchi sono minimi è evidente che sia fuori corso. Quindi la mia speranza è che, come dice il proverbio, quando ne sono passate tante, poi a un certo punto si dovrebbe andare bene, comunque rimontare dal decimo posto, cioè dalla quinta fila, come dicevi giustamente tu, non è così non è facile. Semplice. Anche perché davanti partono tutti i diretti avversari del mondiale, tranne Webber, che ha fatto peggio fuori al Q2, sì, e partirà undicesimo, infatti. Però davanti Alonso ha, oltre alle due McLaren che occupano la prima fila con Hamilton e Button, ad esempio, ha Vettel che quinto, ha Raikkonen che settimo. È vero che Massa è un compagno di squadra, però comunque è un'altra macchina certamente veloce, c'è Schumacher che è sicuramente un pilota difficile da superare. Insomma, diciamo Mario che quello che attende domani Alonso, che certamente ha una Ferrari molto competitiva, è un po' un mezzo miracolo. Se sei d'accordo, sentiamo una parte delle dichiarazioni di Alonso a Rai Sport, certo, subito dopo le prove. Allora sentiamolo. È una delle pole position più facili che potevamo fare. Abbiamo fatto 24-1 in Q2 con un giro abbastanza normale, senza spingere. Adesso, vedendo che hanno fatto 24-0, noi eravamo abbastanza meglio di quello. Domani sarà a posto, però sicuramente partendo decimo tutto cambierà. Adesso, invece di aumentare il distacco o battere i nostri rivali, adesso dobbiamo cercare di minimizzare i danni, quindi sicuramente una qualifica che ci mette un po' in complicazione di più la gara, però è quello che è successo oggi, vediamo domani. Insomma, limitare i danni, ha detto Alonso, che probabilmente sognava in questo fine settimana di poter recuperare terreno dopo lo zero, non per colpa sua, di Spa. È vero, però ti dirò, la corsa sarà sicuramente interessante e la partenza potrebbe poi giocare a suo favore, perché io personalmente, se fossi Button, sarei molto preoccupato di essere in un sandwich che ha un pacchetto di mischia con Hamilton, Massa e Schumacher. Però insomma, penso che sarà una partenza, non dico come quella di Spa, perché la variante è abbastanza lontana, però. E poi non c'è Grosjean, che è squalificato. Ecco, precisamente. Però effettivamente essere nel pacchetto centrale, cioè appunto attorno al decimo posto, è sempre una posizione abbastanza delicata. Ecco, io non voglio assolutamente passare come menagramo, perché io mi ricordo ai tempi in cui dicevo che la macchina diventa i problemi, tu qui c'è nel menagramo, dopo tre giri si fermava. Spero che stavolta io mi sbagli, però sarei abbastanza preoccupato dalla partenza, anche perché non dimentichiamoci che Massa, in una situazione come questa, cioè con una pista relativamente facile, diciamo, rispetto a Spa, con una macchina sicuramente più veloce o comunque velocissima sul diritto, è evidente che cercherà di recuperare la fiducia della squadra di Montezemolo in particolare, per essere riconfermato. Quindi Massa parte col coltello fra i denti. Hamilton, che è piuttosto nervoso in questo periodo, anche perché sta meditando eventualmente di cambiare squadra, non cederà facilmente. Button, che è uno relativamente tranquillo, discreto, elegante, che rischia appunto di essere poi aggredito da quelli che ha alle spalle, perché Schumi è senza dubbio un grandissimo pilota. Sì, e soprattutto è un grande agonista comunque, ecco, in un momento della gara che sarà ancora caldissimo, nel quale in poche centinaia di metri probabilmente avrà la convinzione di potersi giocare poi l'opportunità di fare un buon gran premio. Ricordo ancora i contatti da casa, 800 24 00 per le vostre, scusate, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri sms, oppure se volete mandare i vostri tweet a @ tutti convocati su Twitter. Massa terzo, è vero che non si può dire ad alta voce, non si può parlare ad alta voce di gioco di squadra, ma domani Alonso deve aspettarsi un aiuto importante dal compagno? Beh, teoricamente sì. Nella pratica, sai, in Formula 1 ciascuno corre per se stesso, siccome è uno sport duro, pericoloso, concessioni non ce ne sono. Del resto, se hai avuto occasione di vedere le immagini della fase finale delle prove, si è visto che appunto Massa ha passato Alonso, non dico con fastidio, ma perché Alonso aveva il problema, sentiva già il problema della sospensione posteriore di questa barra, probabilmente che si è starata, e allora aveva cominciato, credendo che fosse un problema di gomme, a zizzagare. Quindi, e quando si è in corsa, purtroppo la tensione è fortissima e ciascuno corre per se stesso. È evidente che Montezemolo ha sempre fatto una politica molto attenta, ribadendo più volte che la squadra è fondamentale e quindi uno deve correre per la squadra, non per se stesso. Però sai, quando sei in pista e ti capita l'occasione di poter vincere in una situazione di la tentazione ti può venire, anche se credo che per Massa il modo migliore per blindare il suo contratto l'anno prossimo in Ferrari sia proprio dare una mano ad Alonso. Mario, se hai un po' di pazienza, ci fermiamo per il traffico, poi lo sentiamo Luca Cordero di Montezemolo, che era ai box a Monza come tradizione e che è parso davvero anche lui molto deluso dal risultato di queste prove. Traffico. A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per gli sms, oppure su Twitter @ tutti convocati se volete parlare con noi e con i nostri ospiti della prestazione della nazionale ieri sera a Sofia e anche di queste prove sfortunate a Monza per Alonso e per la Ferrari. Con Mario Poltronieri per chiudere, allora sentiamolo Luca Cordero di Montezemolo, il presidente della Ferrari, anche lui molto deluso oggi ai box di Monza. Sì, quanto è competitiva, va in un circuito che non è così impegnativo, in cui non è così difficile, che è abbastanza difficile sorpassare, partire così dietro non ci voleva. Peccato, mi dispiace molto per Fernando, perché la macchina oggi era una macchina che poteva fare la pole, come d'altra parte in tutte le qualifiche è stato il più veloce e il tempo di Felipe lo dimostra. Vediamo domani, ce la mettiamo tutta domani, cerchiamo che Felipe tenga dietro tutti e poi contiamo come sempre di un grande Fernando in gara. Peccato, perché l'avremmo visto partire davanti a tutti. E questo era Montezemolo. Mario, per chiudere, che gara deve fare domani Alonso? Nel senso, è ragionevole pensare che abbia una Ferrari abbastanza competitiva per poter passare una parte dei piloti che ha davanti, però è anche vero che dopo lo zero di Spa e in chiave mondiale non può rischiare nulla, perché sarebbe davvero pesantissimo uscire da Monza ancora senza punti, magari perché coinvolto in un incidente. E allora? Ecco, diciamo che ha comunque il vantaggio che i due avversari più forti, visto che Vettel tutto sommato è subito dietro, ma anche lui avrà delle difficoltà, le Red Bull non hanno dato grandi dimostrazioni di qualità in questo tracciato un po' particolare, tutto puntato sulla velocità e un po' meno sul problema delle curve. Quindi I due avversari veri, che sono appunto Hamilton e Button, hanno rispettivamente 117 e 101 punti contro i 164 di Alonso. Lui deve fare riferimento a quello e secondo me la situazione non è così preoccupante, anche perché gomme a disposizione ce ne sono, pare che siano equivalenti come prestazioni le morbide, gli intermedi, eccetera eccetera, quindi diciamo che la corsa è nelle mani della classe del pilota. Sotto questo profilo Alonso, Button, Hamilton, se è tranquillo, sono quelli che hanno più possibilità di arrivare tra i primi. Insomma, ci sono ancora dei margini per Alonso per rendere questo fine settimana meno amaro? Io direi di sì, io sono abbastanza... Sei abbastanza fiducioso. Abbastanza ottimista, sì. Va bene, grazie a Mario Poltronieri. L'appuntamento ovviamente per domani pomeriggio, alla stessa ora, per commentare la gara. Grazie Mario. Ciao. Andiamo invece sulla nazionale. Io saluto e ringrazio Roberto Perrone, inviato del Corriere della Sera. Buon pomeriggio Roberto. Buon pomeriggio a tutti. Per parlare di nazionale e per darvi conto anche di quello che Prandelli ha appena detto a Coverciano nella tradizionale conferenza stampa del giorno dopo della partita, un Prandelli molto deluso che ha fatto l'analisi di quello che è successo ieri sera a Sofia e ha fatto anche un'autocritica abbastanza spietata. Prandelli, Roberto, poi ne sentiamo un paio di passaggi, quelli centrali, che mi pare di poter dire però che abbia capito che qualche campanello d'allarme sulla tenuta anche mentale del suo gruppo a Sofia sia suonato. Condividi? Sicuramente non è stata una partita eccezionale da parte dell'Italia, giusto da parte di Prandelli usare un po', fare un po' il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, cioè ieri sera non è stato così drammatizzante, insomma, meno male ha detto che un pareggio in queste, pur con queste, in questa situazione italiana di questo periodo, come sappiamo, è sempre molto difficile trovare una nazionale che faccia faville, no, per tradizione, e comunque è chiaro che non c'è niente di scontato e ieri l'Italia soprattutto nella manovra difensiva non è stata così precisa come dovrebbe essere, quindi sicuramente un avviso ai naviganti ci sta. Allora, lo sentiamo questo, che è forse il passaggio centrale della conferenza stampa che si è chiusa davvero da pochi minuti a Coverciano, di Cesare Prandelli, dove con una analisi e una critica abbastanza spietata accetta i giudizi insufficienti che oggi si leggono un po' su tutti i giornali sulla prestazione della sua nazionale e lancia questa sorta di messaggio, questo invito a ritrovare anche in fretta l'identità che ha caratterizzato il suo biennio. Sentiamolo. La qualità del gioco perde queste caratteristiche devi comunque mantenere e avere la determinazione, la voglia di ribaltare il risultato, la voglia di vincere, però se ci mettiamo un po' di ordine tattico, un po' di qualità, sicuramente possiamo fare molto ma molto meglio. Noi ieri abbiamo, forse è stata una delle partite nei due anni della mia gestione dove abbiamo sofferto di più, dove abbiamo concesso 10 calci d'angoli, dove abbiamo, come dicevo prima, allungato tanto la squadra. Sì, abbiamo creato anche parecchio, però abbiamo subito tanto. Questa squadra non può subire come ha subito ieri. Quindi dobbiamo velocemente capire il perché, analizzarlo e già da martedì essere pronti per avere almeno un'identità precisa. Io vado a ricercare un'identità precisa. Adesso il fatto del modulo, il modulo va in secondo piano. Noi dobbiamo percorrere una strada e ci dobbiamo riconoscere in quel sistema di gioco. Ecco, questo è il richiamo Roberto al biennio, alla qualità di gioco della nazionale di Prandelli, qualità che ci ha portato agli europei e che poi agli europei ci ha portato anche alla finale contro la Spagna. Il fatto che richiami proprio a questo percorso, ammettendo che ieri sera si è visto ben poco di quella nazionale, è un po' forse la sintesi del giudizio che Prandelli, ma non solo, dà di quello che si è visto in Bulgaria? Sì, io credo che il problema nostro sia che abbiamo un po' un atteggiamento anche generale, come dire, vacanziero, di post vacanziero, un po' di sufficienza, cioè mentre le altre nazionali si impegnano di più anche per le prime partite del girone di qualificazione, per le amichevoli, insomma, prendono più seriamente tutte le, gli impegni che ci sono. Noi abbiamo un po' questa sorta di ingresso un po' così distratto nelle competizioni. Sì, infatti, delle grandi siamo stati forse gli unici ieri sera a steccare l'approccio, anche se da un certo punto di vista, per il fatto che si giocava comunque su un campo difficile come quello di Sofia, eravamo anche quelli che avevano l'impegno più complicato. C'era Olanda-Turchia, però è anche vero che l'Olanda giocava in casa. Sì, diciamo, le altre hanno avuto partite più semplici, comunque che Portogallo ha fatto subito un gol da Lussemburgo, insomma, quindi c'è stato un po' di, da parte nostra, di difficoltà, ma fa un po' parte della storia. Io ricordo tutti gli anni, specialmente quelli seguiti a una grande competizione tipo europeo mondiali, non mi ricordo di sfolgoranti vittorie, mi ricordo di sconfitte. Dopo il 2006 abbiamo cominciato malissimo. Il post Lippi e la, si perse malissimo in Francia. Si perse malissimo in Francia. Insomma, ricordo una sconfitta in Slovenia con una delle prime partite di Lippi. Insomma, qui anche la Bulgaria, anche l'avvio del secondo biennio lippiano, quello dal 2008-2010, fu in Bulgaria, fu una partita simile a questa, con grandi difficoltà, anche con incidenti sugli spalti, insomma, quindi abbiamo un po' questa caratteristica. Io credo che sia necessario comunque fare punti in questo periodo. Sì, e meno male che martedì c'è Malta, che da questo punto di vista dovrebbe garantirci. Esattamente, cioè adesso diciamo i tre punti. In questo periodo il gioco, quello che richiama Prandelli, è giusto. Però in questo periodo è meglio fare punti, proprio perché abbiamo questo momento, anche se vogliamo, di cambiamento un po' della squadra, perché rispetto all'Europeo abbiamo cambiato qualcosa, quindi abbiamo magari qualche giocatore rispetto all'anno scorso meno brillante, quindi c'è tutta una serie di problemi. Io credo che adesso bisogna fare punti, quindi già da martedì bisogna mettere fieno in cascina per evitare brutte sorprese. Esattamente, cioè io credo che sia un esordio un po' così, però bene o male, se appunto come richiamava Prandelli, abbiamo subito molto, come dicevo anche io prima, per il tipo di gioco fatto dall'Italia, che ha affondato su una solidità difensiva, che non vuol dire catenaccio, intendiamoci, anche la cavalcata agli europei, però diciamo che mi è piaciuto il reparto offensivo, ho visto molte occasioni da gol, ecco, dopo il 2-2 ci sono state delle occasioni, anche in 10 abbiamo rischiato di vincere, destro ha avuto delle occasioni che magari la prossima volta, crescendo di esperienza e di maturità in una squadra come la Roma, che come tutti sappiamo il gioco di Zema premia molto gli attaccanti, ecco, secondo me ci sono degli ampi margini. Ci sono dei margini di miglioramento. Sì, di miglioramento, per chiudere, di affiatamento. In una battuta, Roberto Perrone, inviato del Corriere della Sera, gli occhi di tutti ieri erano su Giovinco, merita una seconda chance, detto che ieri sera di sicuro non ha brillato, non è stato l'unico, però insomma la sua prestazione, e anche oggi i giornali la giudicano così, non è stata sufficiente. Guarda, io lo dico, cioè mi lo dico con grande serenità, Giovinco non mi ha mai convinto a sufficienza per un problema di stazza fisica, ecco, io come dire, con quella dimensione lì devi avere una potenza che in questi anni non mi è sembrato che lui avesse. Detto questo, io credo che in questi anni però lui sia cresciuto e spero che gli smentisca, insomma, perché sicuramente è un giocatore che ha numeri, che ha colpi, e secondo me Prandelli considera chiuso il ciclo di Cassano, anche in prospettiva 2014. Quindi Giovinco ha la carta di giocarsi quella maglia che è stata, quindi, di Cassano nel primo biennio di Prandelli, esatto, perché di fatto lo è stata per 20 partite su 28. E anche dei colpi, insomma, e anche dei colpi, e spero che insomma, che cresca, la Juve gli potrebbe dare, perché poi sono le squadre del club, se vanno bene, se creano l'ambiente giusto, che danno convinzione e fanno crescere. Bravo, esattamente. Grazie. Quindi, Roberto Perrone. Bene, ciao. Grazie a Roberto Perrone, inviato del Corriere della Sera. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri sms. E adesso ci fermiamo, pausa per il meteo. A tempo di sport. Io vi ricordo ancora i contatti per parlare con noi, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, oppure se volete mandare un sms 349 238 6666 o ancora i vostri tweet chiocciola tutti convocati, come Maurice che ha scritto: c'è poco da montarsi la testa perché dall'europeo compreso in poi l'Italia ha vinto soltanto due partite, e questa è una verità. Questa è una squadra che ha perso 5 delle ultime 11 partite, quindi è una squadra che certamente ha dei margini di crescita, ma ha bisogno anche di crescere in fretta. Fortunatamente, come diceva prima anche Roberto Perrone, inviato del Corriere, con cui abbiamo analizzato la partita di ieri sera a Sofia, adesso il calendario ci mette davanti un ostacolo molto semplice, come è Malta martedì a Modena, un ostacolo che dovrebbe garantirci i tre punti. È vero però che già dalla pausa di ottobre, quella in cui andremo in Armenia e poi ospiteremo la Danimarca, la nazionale di Prandelli dovrà aver ritrovato la sua identità e il suo gioco, perché a quel punto i punti peseranno. In questo momento l'Armenia è in testa al girone a punteggio pieno, perché ha vinto ieri la prima. Questa sera ci sarà Danimarca e Repubblica Ceca, che dal punto di vista del risultato è una partita che interessa tantissimo la nostra nazionale. Però insomma, ha un mese di tempo Prandelli per cominciare ad avere risposte da questo gruppo che ha iniziato con un pareggio il suo cammino verso Brasile 2014. Via sms al 349 238 6666, ci ha scritto un ascoltatore: la nazionale non dovrebbe giocare prima di ottobre, quando la preparazione è al top, ma come al solito contano soltanto i club. È vero, però è vero anche che questo è un destino che condividiamo insieme ad altre nazionali. Non siamo soltanto noi ad arrivare con pochi minuti nelle gambe a questi primi impegni. E poi chiedono ancora un giudizio sui tre centrali della difesa, e allora la domanda la giro al collega della Stampa, inviato e amico anche di A Tempo di Sport, Marco Ansaldo. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio anche a te e ai tuoi ascoltatori. Allora, un giudizio sui tre centrali di difesa, perché oggi le pagelle lette qua e là sui quotidiani hanno bocciato Gbona, che era il più giovane e il più atteso, perché di fatto era il debutto in nazionale. Hanno salvato Barzagli e Bonucci, però è vero che dietro sono andati un po' tutti in difficoltà a partire da maggio. Dietro sono andati tutti in difficoltà, anche perché c'è stato un centrocampo che per una volta ha filtrato veramente molto poco, e direi che il primo gol dei bulgari ne è la dimostrazione, perché non si può permettere a uno di arrivare al tiro libero da 30 metri senza che un centrocampista gli vada addosso. E quindi c'è un concorso di colpi abbastanza notevole. E sui tre centrali della difesa non mi hanno impressionato. Certo, Bonna aveva cominciato molto bene, devo dire, e poi ha avuto delle difficoltà, forse la parte lì con De Rossi non al meglio, anzi diciamo in una condizione difficile, e con Giaccherini che copriva, Bonna si è anche trovato un po' in difficoltà. Ma comunque nella sostanza direi questo, cioè quello schema lì, quell'impianto lì, è l'impianto che ha permesso alla Juventus l'anno scorso di essere la squadra meno battuta nel campionato. Sì, bisogna dire che è difficile chiedere a un debuttante di fatto come Ugo Bonna di essere quello che non va in difficoltà in una serata in cui tutta la squadra gioca male. Lo abbiamo sentito prima, oggi Prandelli lo ha ammesso candidamente e ha anche richiamato un po' la differenza tra la prestazione di ieri sera ed il calcio a cui questa nazionale ci aveva abituato, non solo negli europei che sono stati una cavalcata verso la finale, ma anche in periodi più bui, quando Prandelli ha raccolto, esatto, un'eredità in cui ha dovuto costruire da zero. Questo forse è il campanello più particolare. Magari Marco, sentiamo un altro passaggio della conferenza stampa di Prandelli, che oggi è stato bocciato un po' su tutti i giornali, e accetta questa insufficienza anche legata ai cambi che ha fatto, perché in tanti hanno sottolineato come lui abbia un po' sbilanciato la squadra nel momento in cui comunque l'Italia era avanti per 2-1, poi è arrivato il gol del 2-2, poi l'infortunio di De Rossi, ma lui aveva già fatto tutti e tre i cambi, insomma una gestione che gli è stata contestata. Un frammento di pochi secondi, sentiamo che cosa ha risposto. Ci può stare, ovviamente in quel momento io penso di poter fare, di poter migliorare l'assetto tattico, poi prendi i gol, è normale che il voto sia insufficiente, ma questo è il rischio che un allenatore deve correre senza nessun tipo di problema. Ecco, questo era Prandelli sulle insufficienze che oggi si è trovato sui giornali. Diciamo che al di là dei campanelli d'allarme c'è stata anche un po' di autocritica da parte del CT. No, c'è stata una grande autocritica. Guarda, io sono 21 anni che seguo la nazionale e non mi ricordo di aver mai visto un commissario tecnico come Prandelli che dopo una partita andata male dice: c'è stato anche del buono, ma di questo non voglio parlare, devo parlare solo delle cose che non hanno funzionato. Cioè, questa è la sua grande forza, secondo me, la sua grande novità. Dal punto di vista umano e professionale, quindi gli va riconosciuto. Sul dettaglio io sono stato uno di quelli che hanno detto che aveva sbagliato la mossa, in quel momento lì non era il caso. Io penso che la cosa più logica in quel momento lì sarebbe stato togliere Giovinco, che non funzionava bene, e mettere Diamanti, e a quel punto cercare di assestarsi in quella maniera. E invece ha fatto un cambio che ha un po' disgregato tutto, poi è arrivato anche il gol, e quindi questo sicuramente non è stata una buona gestione, ma l'ha ammesso anche lui, e mi sembra in maniera molto onesta e molto per bene. È un Prandelli che rischia di essere un po' condizionato nel rapporto con la critica dalle voci degli ultimi mesi. In fondo lui è arrivato all'Europeo palesando un po' di stanchezza, non ha fatto nulla in Ucraina e Polonia per nasconderla e anche per alimentare qualche voce. Le voci le hanno inseguito un pochino anche nel corso di quest'estate. Lui adesso non perde occasione per ribadire che è felice dove si trova, però è anche vero che in ogni caso da qui in poi si chiederà anche a lui un cambio di passo. Il secondo posto dell'Europeo in fondo è stato un regalo, una gemma preziosa che è stata trovata, mentre il vero obiettivo, cioè il Mondiale del 2014, è però per lui anche un banco di prova. Questo è sicuro, e lui ne consapevole. Io credo che oggi l'ho visto particolarmente amareggiato, più che non in qualunque altra occasione, e la cosa non sarebbe giustificata da un 2-2 in Bulgaria, se non fosse che evidentemente Prandelli percepisce questo pericolo, cioè il cambio di dimensione che si è creata anche nell'attesa della gente nei confronti dell'Italia dopo il secondo posto all'Europeo, e soprattutto dopo le due partite con l'Inghilterra e con la Germania, che ci avevano proiettato veramente una dimensione di calcio diverso da quello che eravamo abituati. Due anni fa Prandelli arrivò in una situazione ormai disgregata, tutti quanti pensavamo che fossimo l'ultimo posto del mondo dove si giocava a calcio, e qualunque cosa andava bene, qualunque buon segnale veniva accolto con grande favore. Adesso lui sa benissimo che non è più così, che adesso si attende qualcosa di più, di diverso, e quindi non ci si accontenta più come una volta di un 2-2 in Bulgaria, dice: beh, in fondo un pareggio fuori casa andava bene. Adesso, se le cose non vanno, se non c'è anche il gioco, ci sono le critiche, ma a questo ci ha abituati anche lui. È sempre stato lui quello che diceva giustamente che l'Italia deve anche avere un gioco, e in fondo è anche un passaggio a cui si deve da un certo punto di vista rassegnare. Ci scrivono da casa Tommaso da Siena, pensionato di 81 anni: finalmente è finita l'era di Cassano in nazionale, soprattutto però per il cattivo esempio che dava ai giovani col suo comportamento inqualificabile. Visto anche Giovinco ieri sera, ne parlavamo prima anche con Roberto Perrone, ritieni davvero che l'era di Cassano in questa nazionale sia finita? Perché Giovinco, diciamo, il primo esame, la prima fiche che aveva da giocare, in parte l'ha bucata. Ma guarda, io su Giovinco ho un'idea che scrivo da 3 anni, magari non è tanto facile farlo sul giornale di Torino, ma ed è che è un giocatore di grandi mezzi tecnici, ma che da un punto di vista fisico difficilmente può reggere una scena internazionale di altissimo livello. Quindi il problema è che non vedo perché bisogna mettere in contrapposizione le due cose, cioè se Giovinco non funziona non è che per questo deve tornare Cassano, cioè Cassano non ha funzionato esattamente come Giovinco. Vorrei ricordare che Cassano ha 30 anni e spiegatemi che cosa ha dimostrato del calcio italiano, tolto qualche mese alla Sampdoria. Quindi si può benissimo vivere senza Cassano e senza Giovinco e trovare altre strade. Trovare una soluzione. Io credo differente. Che mai come in questo momento ci sia una situazione che può permettere di provare delle soluzioni d'attacco con dei giovani di prospettiva. E ad esempio io credo che una coppia a destra Osvaldo sarebbe da valutare, senza andare a riprendere Cassano, queste cose qui, a 30 anni basta, stop. Anche perché c'è un certo Balotelli che ieri sera non c'era, non ci sarà martedì a Modena, ma è comunque un pezzo importante di questa nazionale, anche e soprattutto in vista del Mondiale del 2014. Comunque aspettiamo pure lui, perché non è che bisogna parlare di Cassano e dire che Cassano non è tanto nei comportamenti e nel rendimento che conta, secondo me, perché uno può anche avere un comportamento entro certi limiti discutibili, ma poi ti fa 7 gol a partita e dici va bene, pazienza. Balotelli, io credo molto in lui, però anche lui mi sembra che stia facendo di tutto per buttare via il proprio talento. Anche per lui è arrivato il momento delle risposte, anche in nazionale. Esatto. Prendiamo una telefonata, Armando dalla provincia di Pesaro. Buon pomeriggio, Armando. Sì, buon pomeriggio a lei, l'ascolto sempre. Prego. Io volevo dire una cosa, secondo me la nazionale dovrebbe convocare i giocatori di più squadre, più che un blocco, almeno per quanto riguarda le qualificazioni, perché noi sappiamo molto bene che le squadre di club non amano tanto che gli convochino i giocatori durante il campionato, perché si sgonfiano troppo, si fanno male, tutte queste storie qua. Perché con un girone come questo, secondo me, si passa il turno agevolmente. Non è un problema passare il turno. Quindi non le piace il blocco dell'Italia-Juve? Non mi piace il blocco, come è stata ribattezzata. Gioca molto bene da su quante la Juventus, però quando va in nazionale la gambettina un po' la tirano indietro. Beh, insomma, all'Europeo direi di no, Armando. All'Europeo, perché all'Europeo non c'era il campionato. Facevano solo quelle 5-6 partite lì, è logico che se vanno ai mondiali... Altra ribalta, dopo. Dice lei, va bene, grazie Armando. Marco? No, non sono assolutamente d'accordo, io ricordo delle nazionali impostate su dei blocchi, particolarmente della Juve. Tanto sono quelle che ci hanno dato più soddisfazione. No, io invece sono dell'idea che il blocco funzioni, poi anche questa storia del campionato della nazionale lasciamola perdere, cioè... Voglio dire, questi hanno da giocare 4 partite, una delle quali con Malta, non mi sembra proprio che sia un impegno proibitivo, dopodiché praticamente fino a maggio dell'anno prossimo hanno solo il club, quindi mi sembra un tipo di considerazione non corretta. Non siamo a una nazionale che impegna i giocatori per 10 partite a stagione. Torno a dire, da ottobre, dopo la trasferta con l'Armenia, l'altra partita che si gioca qui con la in Danimarca. Italia, con la Danimarca, i giochi della nazionale sono finiti, per cui la Juventus, il Milan, tutti quelli che hanno, avranno i loro giocatori fino a maggio dell'anno prossimo. Non sì, credo soprattutto che in questa stagione direi che c'è tutto il tempo perché i club abbiano il loro spazio, da dire tra l'altro che i club lo spazio se lo prendono perché l'Italia è arrivata all'Europeo avendo giocato 3 partite negli ultimi 8 mesi prima di volare in Polonia e Ucraina, e quindi anche da quel punto di vista non che i club avessero aiutato molto la nazionale. Grazie a Marco Ansaldo. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a Marco Ansaldo, inviato della Stampa. C'è Ivan da Taranto, gli chiedo di pazientare un minuto perché ci fermiamo per il meteo. A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per gli sms, oppure @ tutti convocati per mandarci i vostri tweet su Twitter. Ivan da Taranto, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Io volevo due cose velocissime. Senza due terzini d'ala nella nazionale, perché abbiamo visto il signor Maggio che ha fallito gli europei, che è una mezza cartuccia, senza un terzino d'ala a sinistra e a destra, noi non andiamo avanti. Secondo punto, c'è quest'araba felice di quest'uomo che è tanto decantato dei rossi, che in nazionale ha fatto sempre flop. Ecco, questo è il mio pensiero, come possiamo noi giocare non le è piaciuto modo? Ieri De Rossi, anche se in realtà lui è un uomo di rottura, lui può soltanto rompere in nazionale è quello che con i pugni è scorretto in campo, poi si fa male, tanto decantato, ma non ha mai dimostrato niente. Anche se in realtà ha fatto un ottimo europeo anche fuori ruolo. Io penso, Ivan, che De Rossi paghi anche il fatto che in nazionale, a differenza di quanto avviene nella Roma, gioca con a fianco un certo Andrea Pirlo, che lo costringe comunque a spostarsi rispetto a quelle che sono le sue abitudini e forse anche il ruolo e il posto nel campo dove ottiene i migliori risultati. Però è evidente che quella di De Rossi con la nazionale è una storia fatta anche di tante ombre, oltre alle tantissime luci. Non dimentichiamo che comunque sia De Rossi è un campione del mondo del 2006 ed è stato uno dei perni dell'europeo che soltanto 2 mesi fa ci ha visto arrivare fino alla finale con la Spagna. Matteo invece via SMS ci ha scritto: guardate che con Destro e Osvaldo non si va lontano, Prandelli in carriera non si è mai rivelato un vincente. È vero che forse Destro e Osvaldo non sono la coppia ideale che Prandelli ha in mente, non dimentichiamoci che prima dell'infortunio di Rossi e del malore di Cassano stava costruendo un'Italia senza una vera prima punta. È vero però anche che il campionato ci sta regalando queste indicazioni e quindi Prandelli, che è molto attento a quello che arriva dal campionato, probabilmente potrebbe anche cambiare quello che è il suo pensiero. Ancora via SMS ci scrivono: Paolo Rossi non aveva il fisico di Graziani eppure ha fatto la fortuna della nazionale. Vero anche questo, è vero però che Giovinco deve sicuramente rendere più di quanto abbia reso ieri. Per chiudere il capitolo nazionale, un brevissimo bollettino medico: De Rossi, che ieri è uscito a un quarto d'ora dalla fine con un guaio muscolare, è già tornato in Italia, domani ci saranno gli esami strumentali, per lui c'è una sospetta lesione al bicipite femorale destro, il che presupporrebbe uno stop di almeno una ventina di giorni. Salterà certamente la gara alla ripresa del campionato contro il Bologna, ma a questo punto è molto difficile la sua presenza anche il 29 settembre per la sfida di Torino contro la Juventus. Nazionale che è tornata nella notte dalla Bulgaria, c'è un allenamento in corso proprio in questi minuti, ma molto più importante sarà l'allenamento di domani alle 17.45 a Medolla, provincia di Modena, perché martedì sera si gioca proprio a Modena. Ebbene, si gioca su uno dei pochi campi risparmiati dal terremoto dei mesi scorsi ed è stata allestita una tribuna da 2.000 posti, sono stati invitati centinaia di bambini delle scuole calcio della zona. Insomma, la nazionale, come già capitato in altri momenti, ha scelto un luogo simbolico per i suoi allenamenti e per regalare un momento di distrazione a persone che da qualche mese stanno soffrendo. Cambiamo pagina invece: è andata male anche per questa, non è una buona giornata oggi per lo sport italiano. Stiamo parlando del tennis, stiamo parlando del sogno di Sara Errani, che ieri sera tardi, era notte in Italia, si è giocata la semifinale contro Serena Williams agli US Open. Ha perso male, perché la gara si è chiusa in 64 minuti 6-1 6-2. Io ringrazio e saluto Jacopo Lomonaco, collega di Eurosport, che sta trasmettendo e sta commentando il torneo americano. Buon pomeriggio, Jacopo. Buon pomeriggio. Allora, era davvero troppo sperare in un miracolo? Sì, era più di un miracolo quello che doveva fare Sara Errani ieri sera, lo si è capito subito dai primi punti, dai primi game. Serena Williams è troppo più potente e proprio con i colpi di inizio gioco non ha mai permesso a Sara Errani di entrare nello scambio. Il servizio della Williams è il migliore al mondo, invece il servizio di Sara Errani è sicuramente il suo colpo più debole, quindi la Williams sin dalla risposta prendeva il sopravvento del punto, faceva direttamente il punto con la risposta. Quindi con il passare dei game si temeva anche una sconfitta più severa, è andata 5-0 in pochi minuti, poi a poco l'Errani è riuscita a vincere qualche punto, a mettere in segno anche qualche buon dritto, però non le ha mai dato proprio il tempo di riuscire a impostare il gioco come piace l'Errani, con le variazioni di ritmo, con le smorzate. La smorzata non ne ha mai fatta una, con le discese a rete in controtempo. Sì, non c'è stata mai l'impressione che potesse essere davvero in partita. No, per chi non ha visto la partita, dopo 20 minuti Serena Williams era 4-0, due break con il primo set solidamente in tasca, e anche con la sensazione fisica a vederla che difficilmente avrebbe concesso nulla alla nostra azzurra, che devo dire, correggimi se la pensi diversamente, non è parsa appagata dal fatto di essere arrivata in semifinale in un torneo importante come lo US Open, cioè aveva la convinzione giusta per giocarsela, semplicemente si è trovata davanti una giocatrice che a quei livelli per lei e per tante altre è ingiocabile. Sì, l'atteggiamento è stato fantastico da parte delle Rani, anche indietro 6-1, 5-1, era concentrata come se fosse quattro pari nel terzo set, si giocava tutti i punti, la sua speranza era proprio quella di cercare di allungare il più possibile la partita, credendo in quel momento che se si fosse allungata Serena Williams avrebbe prima o poi concesso qualcosa in più. Purtroppo non è stato possibile allungarla, però è stata un'ulteriore dimostrazione che è così che si affronta un match, perché l'abitudine poi ti permette in una partita che puoi vincere di sfruttare queste tue qualità. Se già inizi a mollare un match nel quale vai sicuramente sotto, poi se ti capita un'altra volta che vai indietro 6-1, 4-1, però rimani a lottare, non sono tutte Serena Williams, altre magari nel momento in cui stanno per chiudere la partita tentennano, succede spesso. C'è la possibilità di infilarsi in qualche modo. Da lunedì avremo la classifica migliore per le italiane, io credo di tutti i tempi, perché Sara Errani sale al settimo posto, Roberta Vinci, che è arrivata ai quarti di finale, ovviamente ne approfitta anch'essa per scalare la classifica. Abbiamo sempre comunque Francesca Schiavone, abbiamo questo meraviglioso primo posto in doppio di Sara Errani e di Roberta Vinci. Tra l'altro c'è il rischio che la finale slitti a lunedì del doppio, perché che cosa sta succedendo oggi a Flushing Meadow? Sì, in realtà ha smesso di piovere, hanno iniziato ad asciugare i campi e c'è una luce ben diversa rispetto a 45 minuti fa, quando sembrava davvero di assistere a un film statunitense del tipo Independence Day. Quindi adesso in questo momento c'è anche la speranza che si possano concludere tutti gli incontri, e quindi rimanga il programma sia di oggi che di domani. Domani la finale di doppio femminile è prevista alle 17 con Vinci Errani contro la Vasco e Radetzky, che tra l'altro quest'anno le hanno battute 3 volte su 4, quindi sarebbe un bel modo per prendersi una rivincita. E poi domani sera invece intorno alle 22:15-22:30 la finale del singolare maschile, mentre oggi c'è il super sabato con le due semifinali maschili e la finale femminile tra Serena Williams e la Azarenka, che a questo punto, viste le condizioni della Williams, io credo abbia un pronostico abbastanza a senso unico. Io ho la speranza che ci sia partita, perché la Azarenka è in grado di contrastare la della Williams in parte, dovrà servire molto meglio di quanto abbia fatto ieri, soprattutto a inizio match, e allo stesso tempo dovrà anche avere una partenza tutto sommato migliore rispetto a ieri, perché ieri ha sbagliato tantissimo di dritto nel primo set. Però ricordando anche come quello che è accaduto un anno fa, Serena Williams era arrivata alla finale contro Samantha Stosur in condizioni simili a quelle di quest'anno e poi perse incredibilmente la finale. La Azarenka secondo me è più forte della Stosur, quindi spero ci sia partita. Certo, se Serena Williams è quella gioca di ieri, come ieri sera, è difficile. È difficile anche divertirsi. Rapidamente in un minuto, chi va in finale tra gli uomini? Djokovic sicuramente, io credo vinca in 3 set contro David Ferrer. Do qualche chance in più a Berdych, ma non credo che Mare commetterà lo stesso errore da un punto di vista tattico di Federer, ovvero di fare a pallate contro un Berdych che l'altro giorno era in grande forma, di dritto non l'ho mai visto giocare così bene. Quindi io credo che Mare alla fine... Quindi si va verso Djokovic-Mare. Io credo proprio di sì. Va bene, questa almeno dovrebbe essere, io credo, una finale equilibrata e da un certo punto di vista spettacolare. Speriamo anche che in realtà che la Azarenka ci regali una finale che vada oltre l'ora di gioco con Serena Williams, perché la Serena Williams, vista ieri, per fare la sintesi che ha fatta Sara Errani, gioca come un uomo, e quindi per le donne a certi livelli è praticamente intrattabile. Grazie a Jacopo Lo Monaco, collega di Eurosport, che sta commentando gli US Open. Noi siamo in chiusura. Io ricordo l'appuntamento domani alla stessa ora, a partire dalle ore 17, con A Tempo di Sport. Un saluto da Giovanni Capuano, che era in studio, da Giorgio De Luca in redazione. Un ringraziamento anche a Carmelo Lauricella in regia. Appuntamento domani alle 17.